radio. Eia, chi è? Eia, Santiago 7, Radio 5, Marco, ciao, buonasera. Eia, Marco, dammi un controllo di radio, però c'è, sto provando lo sciure. Come sta facendo questo microfono, Marco? 1, 2, 3, prova, un microfono a lo sciure. Un attimo, ho capito. Ehi, quello col, con la grilletta davanti, grande, capito. Chi è che chiama, avanti? Tanto non lo sento, Marco, perché gli parli sopra, maleducato? Cazzo, bussi finocchio, sì. Gappa, gappa. Marco, vieni avanti. Ginko. Ma dove sei? Ah, ma a casa nuova. Ma sei Santiago 8, ma Emanuele. Adesso faccio una cosa con la stampante. Marco, ti saluta Emanuele. La condizione è molto precaria. Tony! Devo essere insieme. Forse hanno premuto il microfono, se ne sono accorti. Gappa gappa. Boh, non lo so, non è il mio, Marco, sicché non so cosa dirti, boh. Ma l'hanno dato per fare le connessioni, boh, sicché io non lo conosco questo microfono. Marco, spostati al 15. Attenzione, il canale 10. Ehi, vai avanti. Segnale bassino. Ti sento bassino, ti sento un segnale di 5. Una bomba. Aspetta che do una controllata all'RFI, non si sa mai che ci sarà, dove si può dire una cazzata. Prova? No, era tranquillo l'RFI, dai. Quando mi ascolti tu, amico, con questo apparecchio? KK. Allora, mi hanno detto che sto uscendo a fischi. Forse era troppo alto, dai. Non lo so, qualcuno che ha fatto cucù. Va bene, dai. Mi servono altri controlli perché stavo facendo roba a casa. Se non ti servono altri controlli spengo. Ehi, dai. Magari chiamate se per caso vi servono altri controlli. Che avanti. Poi Marco Gondor, e allora? No, sto facendo cose a casa, dai. Ti saluto, Marco, sto facendo roba... Sto tagliando la carne e mettendo le frigge, dai. Se no, tolgo tutto il grasso, sempre quando c'è un po' di grasso lo tolgo prima di cucinare. Ciao, Marco, ciao, ci sentiamo. Tolino. Avanti, Tolino. Avanti. Avanti. Sempre così. Il segnale è sempre basso. E adesso è anche di meno. Prima era 5, adesso è meno di 4. Ascolta, magari puntato verso un'altra parte, perché è di polo direzionale. Fatelo dare da Franco, se lo togli quelli fatti dare quello. Cappa. Io fra un po' devo uscire, se lo fate in fretta sì, vi seguo, dai. Fai. Quello è? Ma con che radio sì? Cappa. 9, sì, 9. Ehi, ma lo stai tenendo, non posso e poi lo rimetti in un altro. Adesso quando lo rimetti ti cambiano di nuovo le stazionali. Beh, per forza, ma non è sicura dove lo devi mettere, non da una parte e poi lo metti dall'altra, capito? Perché poi trova il muro. Va bene, dai, mi assento allora, chiama quando sei pronto. Cava Cavarogero! Tolino, ci sei? Hola. Hola. Prova. 9:10. Sì, 9:10. Per come si è posizionato va benissimo. Gappa. Bella amplificata, sembra forte. Di lusso. Cos'è il microfono originale, vero? Sì. Ma va così inserito, va sembra amplificato. Santiago 7 con picchi 8. A casa. E a voglia. Dimmi tra il 4, tra il 3 e il 4, dai. Adesso si Santiago 7 a picchi di 8. E dipende anche dove lo riti, il dipolo, non è questione di... Dipende anche come lo riti. Cappa. Santiago 8 anche qua. Sì, Santiago 8 anche qua, dai. Già vai bene, ciao già. Ciao Claude. Sì, ciao già. Santiago 8 qua, dai. Sempre Santiago 8, già va bene. Poc'anzi stavi arrivando a Santiago 3, quindi lascialo così, che va bene, evidentemente è in posizione buona, beh. Che arrivare qua a Santiago 8 ho un subesto di virus, è più che ottimo. Via, ciao, ciao a tutti e due. Santiago 3 con picchi negativi a Santiago 2, tutta frusci. Cosa è successo? Boh, stava provando qualche radio. Vabbè, io vi lascio, devo farmi la spesa, se no non concludo nulla, quindi ci sentiamo più tardi, ragazzi. Ciao, ciao, già più tardi se coincide, non lo so, ciao, ciao. Claudio. Poi? Ehi, ragazza. No, stavo facendo una prova con un microfono che mi avevi dato tu. Guarda, comprendi una cosa. Ma su quella radio là? Però mi stavate dicendo che stava innescando, boh. Eppure, vedi. Ma con quello nero, fammi capire. O se no, mandalo WhatsApp. Con quello nero, il microfono. No, con quello nero che mi hai dato tu, quello per mare, cra. Quello nero per mare, sì. Vedi, a uscire esce, però sta arrivando Santiago 3, Santiago 3 è tutto a fischi. La potenza l'hai aumentata? No, l'avevo abbassata perché appunto pensavo che era da lì l'innesco. Se vuoi riproviamo, ci spostiamo di canale, cioè devono parlare qua, vai sul 20 o dove vuoi andare? Sì, vai al canale 30, vai. Guarda, non si crede, bubu, vabbè. Claudio, Claudio. Eia, Claudio. Hola, 1, 2, 3, 4. Cattoni, dai, io sono in quel rischio comunque, già ci sentiamo più tardi se coincide. Thank you. passati 9 anni con la metro della sua Il Ario Argento nel 2014 si metterà a studio il suo terzo gallerista presentato a casa dal sito. C'è qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, hola. Italiano, Ari di Argento è riuscita a essere. C'è qualcuno qua? Hanno ricordo molto positivo della premiazione. Il genitore va a ritirare il premio con la sua migliore amica, Angelica. Noi perdiamoci di vista che Asia... C'è qualcuno qua? Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Cosa vuoi provare? Cosa vuoi provare? Voglio provare se c'era qualcuno che mi sentiva. Vai. Già ti sento, ragazzi. Perché io ti sento, ma sento più la televisione che a te. La televisione c'ha la voce più alta della mia. Va bene, ok, ciao Natali, ben ascoltato. Altrettanto. Tu sentivi più la televisione. Aspetta un attimo. Non eri tu, io vengo in ghibe con la bassa del Gacciavite, Bulatelli. Ciao, Matteo. Ciao, Massi. Com'è, te pare, beh. Goia Guy. Dico, cazzo, Baglia Metropolitana, insomma, Natalino. Ciao Natalino, buonasera, ben ascoltato. Ciao Gianni. Come va questo microfono? Va splendidamente bene. Infatti piglia più la televisione. La giuda abbascià, se no piglia più la televisione che a me. Perché ho la voce bassa pure in questo periodo. Va bene Natali, chiediamo conferma anche a Massimiliano. Che cosa? Com'è la modulazione di Natalino? Sì, già l'ascolto, va, con le orecchie pelose. Ah, perché tu c'hai le orecchie pelose, così è. Ah, io so che microfono è questo. Ma cosa ne so, possono essere tanti microfoni, Natali. Forse, l'M93. Ma vai. Un Turner più 3 di quelli americani, quello grigio. Ma io ce l'ho cercando da Natalino già. Ma chi l'ha detto? È a metàmi. No, sto scherzando. È quello grigio, Va bene. No, io c'ho quello nero. A me mi hanno dato questo e l'ho trovato per miracolo. Capito? Ed è un regalo addirittura, se no nulla, non i bucavi. Questo è un regalo, me l'hanno regalato, capito? Un amico mio che non ne usava più perché non c'ha più nulla e gli era rimasto questo qui. Infatti c'è scritto Turner's Plus 3 in inglese. È proprio americano questo. Vabbè, pensando va bene da americano. Lo so anche parlare. Forse che è American Voice. Yeah, mi sento simpatico, mi faccio la faccia, Vabbè, non me ne frega, secondo che mi devo ascoltare una cosettina al volo, sì. A pigliarla, Natali, quel microfono va molto molto bene. Si sente che è un buon microfono. Ti piglia pure la televisione, figurati. Ehi, c'ho anche l'MB2-4 che ce l'avevo in scatola. L'altro MB2-4, quello vecchio, l'ho regalato a Antonio, l'avevo regalato, capito? Che lo conosco a piccolino e quindi a giubilato per aggiù regalato. Questo era in scatola. Siccome Antonio mi ha dato lo spinotto per poterlo attaccare, siccome avevo l'attacco a 8, allora gli ho messo quella a 4 e l'ho adattato per qua. Funziona anche qua. No, ha una buona dinamica, è molto radiofonica come modulazione, è bella, mi piace. Magari è, forse per il mio parere è un po' troppo alta magari di Mickey Gain, ecco perché piglia il televisore. Comunque è molto radiofonica, bella, mi gusta. E a metà forse vuole più basso, non lo so. Aspetta che lo abbasso. Adesso è a un quarto, guarda un po'. È anche lontano dal microfono, non sono vicino. Va meglio adesso, perché si porta, chiaramente come aumenti la sensibilità, si porta, tende a portarsi un po' di rumori circostanti. Comunque è bella radiofonica, mi piace Natali. Bello, c'è un bel suono questo microfono. È capace. Fammi, adesso mi sono messo vicino, guarda un po', 1, 2, 3. Eia, sì, quando ti avvicini chiaramente smorsi molto il rumore di fondo, dai. Va meglio, va meglio. Ecca. Funziona benissimo. È vecchio, mi sarà più vecchio di me. Me l'ha dato un amico questo qui. Perché a comprarne non ne trovi neanche, è quello grigio. Eia, ascolta, ma a che radio lo hai abbinato? Al 3009? No, lo posso abbinare al 3009, però il 3009 è omologato, è tutto chiuso. Non so se pompa, boh. Se vuoi lo attacca al 3009 e guardiamo come funziona. No, no, no, vabbè, era semplice curiosità personale. Vabbè, non ho sentito le bip, ci sono arrivato adesso, vabbè. Non so che radio stai usando, se si può dire. L'anitone 5555. Però il Superstar è chiuso di modulazione e tutto, perché come l'ho comprato non l'ha giudicato assolutamente, se no perde l'omologazione, capito? Ho capito, la sto usando l'alitone, le alitene. no, già lo conosco. Lo conosco quell'apparecchio, forse ce l'aveva Marco Condor anche quello lì, se non sbaglio. Boh, magari mi sto sbagliando, però mi pare che era così. Avanti Massimiliano. C'è qualche arrivente. Pure la risa ti ne è capata, Massimiliano. Perché ha più compreso la rittore, capito? C'è un cuoco, ma è secco. Vai, può ma non sarai tu. Io, vabbè, là. Non c'è nessun altro nel canale 10, oltre noi, tu, noi e le rose. Boh, io sono entrato a strappo, ho sentito Natalino facendo prove, e boh. Ah, senza filo della frizione, sì, anche tu. Eia. Io la butto così. A me mi si è truncato qui sull'acceleratore, infatti va giù in mano. Io mi ricordo una volta, siamo caduti un sacco di anni fa, si era rotto il filo dell'acceleratore del Ciao, mi pare che era mia platamona. Praticamente per tornare a Sassari gli abbiamo levato la guaina e l'abbiamo legato praticamente all'attacco del manubrio. Praticamente per accelerare chi guidava appoggiava Rubini. Non ti dico cosa è successo. Noi prima si faceva così, anche nella festa, quando ci rompeva il filo, facevi uscire il cavetto che avanzava, lo facevi uscire quando c'era il rubinettino della riserva e acceleravi dei ivi. Nell'app io lo facevo, io tiravo l'uvito con la mano. Bei ricordi. Poi una volta, questo è un altro mio amico che aveva il ciao preparato e è arrivato a metà a Ponte Rosello e si è truncato il telaio. Cioè, su dalle vibrazioni, vabbè che la tiene Coca-Cola sul telaio. Cioè, su gas, quante cose che ho visto. Sono paroso. E te ho buttato in tre che ero qua a andare un attimo dopo, sicuro ciao, ma ti segui tu vicino a mano al notto. A di mai ti posso broncare un good. Se ne vedevano i cotti di crude, io abitavo lì via mercato da piccolo e quindi se ne vedevano i cotti di crude. Si sono entrato in gabinetta, usato in tremi, cazzo ero qui le bicicletti, però va via la moto troppo bisanti, giù mai si è ammazzati. Sì, vecchi falcone della Gussia, no? Allora, io do una fettatrice, tutto. Sì, il falcone 500, la fettatrice, sì. La vecchia, il vecchio Gussia in vicino urbano, c'è sì, yes. E c'avevo 13 anni, manco, non lo potevo manco portare quel ciao. C'è sì, yes. Un po' di anni sono passati, dai. Sì, sono lo pulito manco buciacchi, papi di 13 anni, si buciava a 14 nei bari, così è. Sì, l'età minima era a 14 anni. E tutto in tre, c'è nel latte dolce, babbo l'aveva vinto nelle caramelle quel ciao. Già me lo ricordo che c'erano i vari concorsi all'epoca, sì, mi ricordo. Vabbè. da quei ricordi ti accorgi che sono passati un sacco d'anni. Ehi, ma a me davvero. Ehi, ehi, parecchio. Mi ricordo quando andavo a fare, facciamo colletta per mettere la miscela al distributore Corso Trinitager, con la pompetta per pompare l'olio per fare la miscela, Gesù, ragazzi. Sassino qua fuori! Vai, vai, Luca Puglioni. Cosa vuoi che ti faccio schiattare? Ciao, Natali, ciao già. Mi ricordo pure io in Corso Trinitager. No, dagli una mano. Fissato io, quando ero ragazzino, avevo troppo 12 anni, 13 anni. E lo dicevo al tipo, a Franco, no? Se l'hai conosciuto, due Franchi, con i baffi, il padrone e l'altro era più giovane. E glielo dicevo se potevo mettere la miscela alle moto, che ricordi, ma 30 anni fa. Sì, infatti, è un anno di manca sui fornitori. Lu, come sto uscendo di radio? Che sto usando un microfono che mi hanno regalato. Siamo in 60. Vai, 60. È un Turner più 3, però è basso quindi volume, perché se lo alzo aumenta la sensibilità, si sente il televisore, mi stava dicendo. Sì, già va bene, dai. Dai, sono entrato che devo andare a fare la spesa, sono entrato a salutarvi, riprendi già, ma ci sentiamo più tardi, dai. Ciao, riprendi, ciao Natali. Ehi, ciao Luca, ben sentito. Anche io sono entrato a strappo, così un attimo. Adesso mi devo allontanare che devo controllare i signori anziani qua a casa, quindi magari ci sentiamo dopo, ok? Dai, ciao Natalino, Massimiliano c'è ancora l'ascolto, boh, magari ci aggiorniamo dopo, ok? Cappa, ciao Gianni, ciao Luca, alle prossime, dai, sono in quel Rixi. C'è qualcuno su 10? Buonasera, non ci abbiamo l'onore. Ehi, ciao Marco, dai. Dove sei? Una panoramica. Tra il 5 e il 6 di segnale. Cosa ci facevi a produttore, se? Se non ti copio io vuol dire che la radio non funziona. Ti ho detto cosa ci facevi a Porto Torres. E quella moto che ti è sorpassata non l'hai vista. Vabbè, la prossima volta ti do un calcio allo sportello. Una moto grossa nera, non l'hai vista. Vabbè, stai imbrusionando. Lì vicino alla rotonda ti ho superato, stavo anche andando piano. Vabbè, ma io già l'ho riconosciuta la macchina, tu anche suonato, chiaramente tu a me non mi potevi mai riconoscere perché c'ho il casco, quindi non mi vedevi. Va bene, stavi passeggiando con la tua antenna del barracchino, bellina quell'antenna. Avanti Gianni, avanti, riprendi. Ma Marco, quando guida il quadrato sulla guida, no, non conosce nessuno, non vede nessuno, perché anche io qualche volta l'ho suonato, non se ne è accorto. No, non si distrae, no? Sì, bellina, non è tanto grande, ma già va bene. E già non ce n'è di niente, stendite, va bene. Stavo in modato con Claudio. Ehi, cappa. No, io stavo messaggiando ieri con Claudio, mi ha detto appunto che dovevo mettere a posto quel microfono. E vabbè, dipende da chi lo usa sempre, quello io l'ho avuto, già funziona bene. Già rientrato c'è da fare la spesa, doppio. Sì, adesso ho finito di sistemarla. E non è che avevo molta roba da comprare, ho comprato la frutta, la verdura, un paio di yogurt, qualche cazzatina così e via. Se no se sta gente tutto il negozio ogni volta mi svolta il negozio. Ma non vai lunedì piazza di segno a prendere la verdura, io tutti i lunedì vado, prendo arance, mandarini, la belga, lattuga, iceberg, broccoli, cavoli, cioè durano tutta la settimana, si risparmia un po' di soldi. Anch'io prima andavo in frutta e verdura, cazzo, ci vuole un capitale. Questa lattuga che vendono nei supermercati si sfoglia tutta, deve essere che come la tolgo dal frigorifero e si defoglia e si fanno subito morte. Va Vabbè, io diciamo che la verdura più che altro la do agli uccisi. Io mangio pomodori, pomodori in salata con la rucola, queste cose qui. Ma la lattuga la do agli uccisi. Ma i pomodori non sono di stagione adesso, sono di serra, non facciamo sapore di niente. Anch'io ogni tanto li prendo, ma sto evitando. Non mi piace, a me piacciono la verdura e la roba di stagione, capito? Citrioli, pomodori di stagione, tutta roba di stagione, adesso è tutta roba di serra. Capito? Vabbè. No, io vado a Piazza dei Segni, c'ho uno singolo, oramai vado sempre lì e ti dico che mi dà roba buona. Ho preso i carroncelli l'altro giorno, ma una squisitezza. Pagati molto meno della frutta e verdura, molto più gustosi. Kappa. Avanti, e poi questo ti c'ha roba d'orto, perché devo portare un assorso. Tutta roba di orto, hai capito? Non è roba di serra. Avanti, Marco. Non è molto grande, che antenna è? L'ho vista così sfuggita. Adesso non c'è la base magnetica, cosa ne c'è voi, Zaira? Ma è palese che se era sulla base magnetica qua nel baracchino, non è che viene sia nel 50 nel bus, 50 attenti. Ti ho superato a 70, boh, 80. Non è che ho girato e ho visto questa cosa nel tetto, poi non so se è l'antenna della radio o qualcosa, ma la macchina c'è la tua, sì. Non è quella cazzo di catamarano grigio, non eri tu. Hai visto dove c'è Ernesto praticamente, lì in quel pezzo lì eri. Miscela, mi sono dimenticato di portare da mangiare con la cagnolina che sta lì alla rotonda, me ne sono proprio dimenticato, era mio cosa, obiettivo, vabbè, alla prossima volta. Ehi, tutta la mandola è lezionata, è una prova che stavo facendo. Noi proprio con Don Cesarini prende due bel conto. Ma io non ho compreso ancora come stai uscendo, se c'è un'antenna, se c'è col carico fittizio, cosa si vende. Non ho ancora capito come stai uscendo. Ma non era su base magnetica, cazzo, la base magnetica c'era al centro della cappotta, sul fianco della cappotta. Ho capito, ma c'era una basettina, c'era l'antenna autoradio, si vede dietro, l'ho vista, però c'avevi un'antenna, ti ho detto, carina, piccola, non è grande, però già c'è, cazzo non c'è. Allora, boh, ora mi scrivi, non mi capito. Ho capito, l'attacco dell'antenna della radio, l'ho visto, ma l'antenna del baracchino, la conosco, Ma io cazzo, non c'è quel catamarano, agila tu, l'agila grigia, già eri tutti, adesso ti ho anche suonato e ti ho riconosciuto dal naso. Ma il naso era coperto la mascherina. Sì, ma la mascherina si vede la gonfia. A parte, io per nascondere il naso devo mettere un paracadute, non una mascherina. Ah, io già eri tu, se ti ho detto che ti ho suonato, mi sono anche girato, però non mi potevi conoscere, perché c'ho il casco con la visiera, capito, c'erano anche gli occhiali, quindi non potevi mai riconoscermi, ma già eri tu, tranquillo. Ti ho detto, lo vedi, eri lì nel pezzo del rettilineo, prima di arrivare alla rotonda, di fronte a Ernesto, sei passato davanti a Ernesto. E io sono partito da giù, ho dato due o tre colpettini e ti ho superato, boh, 60, 70. Ebbè, lo ti faccio io, dai. Già ti conosco. Vai già, vai. E che affari che stai usando, Marco, in macchina? L'unico, l'inimitabile, colui che non ha rientri DRF, colui che è anche omologato, peraltro, il 3900. 3.900 omologato. Non quello digitale. No, no, 3.900 uno ce n'è. Quello col display blu. 40 canali, 4 watt. Quello display blu è bello, me lo dai. Già, no, questo poi omologato e questo è da mostrare in caso di controlli. Omologare. Vabbè, perché mi ho omologato? Poi se abbassi il tasto ti non diventa più omologato e c'è 240 canali. Ma devi modificare il jumper, devi mettere, spostare quel jumperino con le pinzette. Vai, riprende voi. No, no, così arriva Marco, arriva così, da dove lo fanno, me l'ha detto lui. Io non ho toccato niente, non l'ho mai aperto, arriva così. E sai perché? No, questo è Proxer, questo è importato dalla Proxer e commercializzato come omologato. Proprio nasce 40. Poi, so che nasce, è tale, puoi cambiare sesso, puoi cambiare tutto. Sì, anche tu l'hai fatto. Noi, questo no, questo deve rimanere qui. Ma cappa. Claudio, riprendi. Hola, hola, hola. Pensa che dall'ancora ho sentito... All'ancora sentivo solo Massimiliano e il profeta bassissimo, tipo Santiago 2. Natalino Santiago 0. A me mi hai sentito da lì. No, non parlavi, in quel momento non hai parlato. Ah, ecco. No, perché stavo dando dei controlli a cosa, a Ginko, che stava facendo questo... Stavano facendo questo dipolo. Ecco. Avanti, Massimiliano. Ciao Gianni, mi sembra Marco, giusto? Ehi, buonasera. Ciao Gianni, ciao Marco, c'era Natalino, un braccetto poco fa. Non so se sono andati via, buh. Sì, c'era Antonino, aspetta. Ciao Massimiliano, mi copi? Sono con un antenino piccolo. Già ti copio, sì, già ti copio. Ma che zona sei? Viale Porto Torres, altezza Mercedes. SB Santiago 3, la radio non è perfettamente 5, ma comunque ti sento, vai. Marco 925 a casa. Perché otticamente sono aperto, dai, aspetta che è veramente pericoloso, dai, riprendete voi che qua rischio la multa o l'incidente. Te la stai pagando da solo, eh. Ma se vedi, cos'è che antenna c'è? Un'antenna tipo quella della radio. Presente, quelle antenne che sono camuffabili, sono CB però sembrano antenne di radio. Ecco, capito. Sì, comunque dai, stavo guardando anche nelle sono invece 5-6 di segnale, con un po' s'antenna, va. KK. Sì, dai, è un po' come. Un po'. Non si confonde, va. Di quelle camuffate. Kappa Roger. Ma cos'hanno i Galaxy già? Eia. Vabbè, adesso la porta, sì. Sì, c'aveva un filo staccato, non te l'ho detto, un filo staccato dall'antenna. Già me l'avevi detto, ma stavo dicendo, comunque si sta comportando bene adesso. Sì, sì. Tutto ok. Andave. E tu? Che cosa stai usando? Il 14. Via, positivo. Sì, no, va bene già. E mi ce l'ho anche a uno, bassissimo. Sì, no, va bene così. Magari è stato tirato. No, questo non è tirato già. Questo viene da un laboratorio in continente, tutto allineato, tutto a posto. Ah, ho capito. Andate, mezzo gai, no, che sto scendendo bene. Niente, cioè, 440 e 140, fa bene, la modulazione è uguale, anzi, forse più forte. Riescono bene, in AM sono i migliori secondo me, va. Proviamo un po', Condor. Via, lì, cavalca via, sto per sboccare in corso 30, spero di trovare parcheggio sotto casa. Bene, comunque è la prima volta dopo mesi che vado alla Litoranea a farmi il giretto. Bello, aree di mare, certo non c'era un'anima, cioè non è periodo di... capito di movida, roba del genere. E non te ne fatti gli occhi, dai, c'è andata male. Poco pelo c'era. Vabbè, oggi era una bella giornata, ma gente così, non è che ce ne sia molto in giro, anche per freddo, Io, è stata una bella giornata oggi, però ti dico che verso le tre ho aveva acceso tutte e due le stufe. Siamo giù e su. Ah, e dice che... aspetta un po'. Che ci sarà un crollo pure tipo domenica d'intorno. Sì, dice che ha messo anche addirittura neve a bassa quota. Capito? Dice che cala parecchio la temperatura. E vabbè, ma è il freddo, bene o male ci sta, capito? Un giubbotto grosso, una felpa, cosa. Già si può reggere. E rugato è che è peggio, lo finiamo in buca la buccia. No? Eccolo sì. E anche il calo piace il ripiglio, piace nel condizionatore, diciamo. E c'è Bonisi. Caparrogero, adesso non ce la faccio. Oh già, adesso attacco il 3.900, ora sono un mese fa 3.000. Ma vai, vai, allontanati, che ti salta in aria e ti scudi a faccia. Ti sudrà piccolo. Chi è? Non sei, chi sei, Bruno? Oh, io guarda, basta che abbasso un po' le referie, sono a posto. Sì, sì. Fondo a scala, là, ci sono tu casa. Ciao Bru, volevo sapere se Franco c'ha il tuo numero di telefono. Natalino so. Se no al limite ti fai dare il mio da lui e mi chiami. Gianni. Ok, ma mi ha dato salve. Infatti. Anda bene Mera. Vabbè Bru, rimango in ascolto io che sto facendo col sto facendo delle soldature qua. Ok, vai. Ehi, ehi, andate a sentire un pure qua. Ma tu non capisci davvero, tu dai. Ora, ora, 1, 2, 3, prova. Chi è che fa prova? Io sono già, guarda un po'. Aspetta, faccio un po' di chi. Ora, 1, 2, 3. Cosa devo guardare? La radio, sei buona già. Questo è quello del 3009, quello modifichetto. Che è buono, sì. Aspetta che ha passato un po'. Sta andando. Ok, va bene. KK. Quello modificato questo qua. Ehi, già, positivo, mi va. Adesso mettiamo il bip. Cambio. Hola! Tutti con questo lecca-lecca, boh. Ok, va bene, va bene. Tutto già disinseribile, dai. Pulsa, è come il Pluto questo, là. Questo è il Superstar 3009F. Finocchio, Eia, con frequenzimetro. Sei bande. Donne, a farne dei ballaglio, aglio, aglio, aglio, aglio. Quello è bello, Il mio c'ha 240 canali lo stesso. Mi è arrivato così, già fatto. Ehi, allora, ti mando la foto se ti piace, capa. Yeah. Va bene, dai. Va bene. Il mio invece è arrivato tutto chiuso perché perché ho omologato. E non l'ho toccato. Così è, così rimane. Come ti me l'hanno mandato due? Se no perde l'omologazione. Ma il mio si può fare anche omologato. Basta che tu abbassi un tasto e omologato. Lo alzi e c'è il canale. No, io lo faccio così. Cos'è importante questa liceo, cioè si porta dietro qualche rumore strano? Non lo so, l'ho sentito anche. Sarà importante. Questa Santiago 5, cos'è importante? Ah, la portante per farci il sollettico, per tapparci il QRM. Oh, vabbè. Vediamo un po', Condor. Gira, gira allora, se sotto casa, cerca parcheggio, va bene, dai. Ma Colino Condor, sei un bastardo, ti potevi fermare. C'è un Natalino comunque. Cos'è lui? Che dice quello con Natalino? Infatti, quando parla lui le metto la portante. Ma a me Santiago 5 qua, Ma cosa ti dico? Rimango in ascolto. Quello che mette la portante se la prende nel culo. Ciao a tutti. Io lo sento a malapena Natalino, lo capisco, Sì, ma ciao a tutti però. Se la deve prendere nel culo quello che mette la portante. Oh, vabbè. Va bene, allora, dai, la teoria se me lo in chinci, in chinci. E se no rompe le balle a lui, se rimango io, quindi è meglio evitare. Poi non mi posso incavolare. Meglio che si incavoli lui. No, vabbè, qua la passi tranquillamente, Natalia. Lo passi, io la grande. Ma qua, se vuoi. sbaglio? Allo passo? Come lo prendi? Vai Natalì! Andale, vai Gianni! Ehi, da me non passava, eppure arriva forte. Non passava, però è strano, perché c'è questo fischio, capito? Questo fischio che rompe le scatole. Mi. Perché la fa apposta, là? Lasciamo perdere che mi. Che. Avanti chiedo mi a me. Daniele sì. Lupro sono, Lupro, buonasera Gianni, ben sentito. Oi. Lupro Fetta. Ehi, ero poco fa in onda e mi sono dovuto assentare per cose domestiche. E quale onda eri? Cosa, anzi? In quale onda eri? Eri in onda. Seria. Onda senza l'H, chiaramente. Ah, ecco qua. Là. Ma c'era anche Condore che stava cercando un parcheggio. K, no, va bene, vai Lu. Arriva proprio Massimiliano, questo è l'asciuto Massimiliano comunque, che sto attaccando quel documento là. Ah ok, va bene, allora attacca il documento, andiamo. Come siamo attaccati qui? Vabbè, ti c'è anche Claudio, avanti Claudio. Cosa? Claudio c'è, avanti. Non prefè, torna nell'onda se ne è andato, bro. Onda su onda. Ehi, va bene, va bene. Quindi va bene questa radio, già? Va benissimo, non tocca niente. Quindi ci può usare anche a fare questo normale, là? Sì, così sì. E allora gli andava, là? Ok. Vediamo un po', Condor, parcheggiato ti sei? Non c'è. Vic, là, la prossima volta ti compare il elicottero, così lo trovi. Esce bene, vedi, anche sotto casa sua, mezzo palazzi, per un antennino che c'ha, va bene. Va bene, là, già l'ho provato questo, vi passo con l'altro, là. Io come vado? 1, 2, 3, prova. 9, 30, dopo lo 0 del 3, sì, qua. Cappa, andate. Sì, a voglia, va bene. Ce ne pari borchi, come ti disegni a Coda Ruina. A Coda Ruina, ce ne pari borchi. Positivo. Vai, HV, finito di soldare, cambio. Claudio, sì. Ma Claudio ha mollato. Oh, mamma mia, dove sto? Aspetta che cambio, là, che il tuo microfono in mano va già appigliato. Cambio anch'io, dai. Già cambiato, va. Ebbè già, ma c'hai qua, Ciambà. Oggi Ciambà da là. Mia radio, già. Ma ne picchi? Asciuga. Si la via già buddo, già. Ah? Si la via già buddo. Un bel bene con la radio, ma un bel bene la radio, non perché le altre siano di meno già, però questa è la numero uno, te le batte tutte. L'ho fatto una coppietta vincente io, dai, l'ho accoppiato questo microfono alla tavola, va bene. Perfetto, ma poi è proprio bella presente, capito, è non strappa, molto forte, bella, bella veramente. Va bene, va, sono contento. E questa come va? Questo è il 3009. Anche questo è bello, il 3009, una bella radio, la Parì. Vanno molto bene come radio, va. Sono rientrato. E questo è il microfono normale, questo è proprio il 3009 omologato, dai. Non funziona né canari, nulla. E quindi lo devo usare così. Va bene, senti, ce ne per i maiali. Anda bene Meda. Vai, Lupro Fetta. Ehi, vai Natalì, che non ce n'è per nessuno, che anche questa radio è radiofonica, come si tocca. Ehi, questo è il 3009, vedi quello che stavi dicendo tu. Però non c'ha né canali né niente, normale. Come mi è arrivata, a me mi è arrivata chiusa, omologata, e non il dopo. Ehi, chi è che c'è rimasto? Gianni, ci sei? Sì che ci sono, come ti sto arrivando con questa radio? Al solito già, il segnale è sempre più o meno quello, dai, non c'è grandissima differenza, non so cosa stai usando, boh. Ciao Marco, sei in barra mobile ancora? sì, ti ho sentito. Ciao Marco, allora dai. Buona carica per dopo. No, lascia tutto attaccato alla macchina, tanto non tocca niente nessuno lì. Via, dimmi già. Adesso che c'hai il K, guarda a vedere il segnale come ti sta arrivando. Così sei in alta, vero? Via. 9.30. Con la bassa fai 9.15, 9, quasi 25. Allora, con la bassa potenza c'hai più picchi di modulazione. Ok, invece con l'alta sei più stabile, però ho bisogno di... cioè, bisogno di vati sotto, capito già. Strumento. Cosa già? Va bene dallo strumento, lascia abbassato, ci sono i picchi a gogo. Va che andare allora, sì. Così se lo abbassa. Già lo so che si abbassa, proprio dai picchi, dai. Chi era l'altro? Avanti? Luca. Vai, non breffè, vai. Ehi, a tre culo, abbassa dei cacciaviti che non ti voglio. Alla reale! Stanno arrivando quelli cincillami che c'è di plastica. Tipo Cionciao, così è? Quelli che prima scegliamo i rivolti su Bumurelli. Ah, rivolti finti? Gianni, ma con che radio stai andando? Con il Cobra. Ok. Ma tipo quello di Bulldozer, no? Eia, uguale. Bene, bene, sì, già va bene, dai. Va molto bene. Cavagna, vedi che sì, è bassa, bassa potenza, c'è due potenze alte e bassa, questa è la bassa. Va bene, va bene. Va benissimo, va benissimo. Oia. Io l'ho sempre detto, mi viene girato pure la cara lì. Io Bulldozer lo riconosco quando adopera la radio sua. Massimiliano, dimmi. Ma fottito quello del microfono, l'ho appena spedito, lo sai. Non riesco più a rintracciare il numero e niente. Vabbè, si abbiglia a luce. Ne trovo un altro, ui. Adesso se non trovo, prima che trovo il microfono, che mi serve per il Galaxy, perché per il Galaxy stanno usando questo di microfono. Adesso l'ho messo qua e c'ho quello che usavo sul 3009, capito? Ma fatemi mirare uguale, ci vado una fotti, però lo tenete un pareggio del microfono. Sì, ma infatti, lo sto cercando, fanno il P3, se lo trovi, fammelo sapere. Guarda già, io uno l'ho trovato, che sono un Beccari, capito? L'ho trovato uguale al mio, il P3B, quello tutto nero, 100 più spedizione, lo voleva 120, e ho diritto lascia perdere. Però le cifre sono quelle, non ce n'è di me, anche che non ce n'è, prima di tutto, ma quelli che ci sono ti vanno di bagare. Ma poi ma non ti comprare il microfono, non ti dico Galaxy, io vado in affutto. Perché allora nel 2009 volevo mettere la static, no, che adesso c'ho nel Galaxy, il Galaxy è con la static, che tra qualche giorno comprerò il cavo da Fusaro e mi cambio il cavo, perché il cavo si sta un po' sgretolando, ma già ne lo cambio, dai. No, ti stavo dicendo, al posto di cercarti il microfono, venditi il Galaxy, che non ti va più nulla. Perché mi vendo il Galaxy? Se non c'è questo, guarda dove va. No, il Galaxy non si tocca, va qua. E allora lì, allora c'era in vendita già, un Savelpar Master Plus, 80 euro, nuovo no. Dove l'hai visto? Su eBay? No, l'ho visto su subito, mi sembra, su subito mi sembra che era. Va bene, Savelta va bene. Ne avrei due uguali, ma questo qui è Savelta, questo usare Savelta. Vabbè, se ne hai due uguali, cosa ti ha tutti? Ma puoi mettere uno nel Galaxy, nel 2009 e uno lo lasci fisso lì per non stare sempre cambiando, capito? Cassa. Oppure nel 2009 lo metti la static e l'altro Savelta lo metti lì, cosa te ne frega. Tanto noi che mi manda in giro con la radio, se mi fa guardia fa guida, così è rubato. Con Borsello, ragazzi. Sì. È tipo negli anni 90, i primi cellulari che si usavano con la bretta alla spalla, dai. Così già, ti metti il Galaxy con la bretta alla spalla. Quando esci con Lugano, è buona per chiamare Lugano. Chi è rimasto avanti a chi tocca? Massimo ha parlato, Rubotetta ha parlato, vediamo se c'è Marco Condor, se è riattaccato da casa o se sta pranzando. Aspetta, già ti piace? Prova! Questo già ti piace a te. Questo è sicuramente un coso. Lontano. Invece no. Questo è il saluto che ho messo il troppo. Però è la voce impastata, non è chiara la radio. Aspetta, quello è pro, io sono il correggio, amico, io sono Trullia già a voi. Ma no, non lo fai, chi c'è pro? Ma infatti è Trullia. Adesso meglio qua. Tutto al minimo, cazzo. Provalo. Vai già, e beh, ti piace questo? Sì, sì, sì, va bene. Perché è veloce. Mi vai, me lo vendo, Questo è Saletta Master Pro. Quello col modulometro, lo strumentino. Una canonata, Ma è quello che c'ha, diciamo, il campo fisso, oppure quello che c'ha, tipo, flessibile? No, questo non basta il campo, ma non è il campo sottile come il plus, no? Capito? Questo c'ha l'eco, anche, ci rivive lì, cocco. C'è una specie di banana larga schiacciata, vedi già, come il braccio di Nico. Sì, già lo conosco. Non mi piace la forma, sinceramente, quello dovevo dire, non mi piace la forma di quel microfono. Però guarda quanto esce bene. Ma con la voce di Luca non esce bene bene. Compratelo tu. E per quello che tu dice. Quanto mi dai, aiuto? 20 euro. E come tu mi volevi dare 70 euro in garage, te lo do 20 per quello. Ma magari c'è facciato però, io cosa ne sapevo, io sinceramente lo dovevo dare a aggiustare. Facciato con un gambo, con un filo staccato da dietro dove c'era l'antenna, Luca, non c'aveva niente. Cioè intanto lo stavi vendendo perché non stava funzionando più bene, e te lo stavi vendendo a noi tra l'altro, no? E magari mi hanno fatto offerte di 130 euro, di 130, di 150, lui che aveva fatto l'offerta a strada di 70 euro, cazzo delle musina. Cazzo delle musina, e non cazzo era abbonato, dovevi attendere, ma con sallo. Ai ai ai. Ma già, però ti va anche un giro di salsiccia. Ma chi sta per rubare maiali? È una felice già. Cazzo, bisogna vendere ricchi con la salsiccia. Pure di maiali. Certo, tu pure lo sai. Massimiliano, ma che ti dai? Paolo, a parte gli scherzi, quanto lo saranno quel microfono? Quanto? Questo me lo dice sempre da qua, non esce. Trova a allontanarti la bocca al microfono, mi sembra tutto impastato lì. Dimmi se ne va a abbassare però. Luca, io ti do 7 euro, me lo dai quel microfono? Quello il vino? No, ha abbassato la moda al microfono. Ci si vende poco da brutto, ciu. Ma però guardati WhatsApp. Ciao Fla, buonasera. Ciao a tutti, ciao. Continuate. Vendo i microfoni, vendo quello, vendo salsiccia, vendo... Io non vi posso vendere altro. Questo giorno pure ma con in pipa, il buco. Non è male l'idea. A chi piace, non so. Vabbè, a chi piace. Uno che si abitua. Vizioso. Fate, dai, preferisco rimanere in ascolto. Ciao ragazzi, divertitevela. Poi ognuno se ne scende dalle scale come vuole. Pure a Rudurone. Digli davanti alle dita. Ok, aspetta un attimo che devo fare un interrogativo. L'MD100, come tipo di microfono si può somigliare all'SM20, no? In modo più assoluto, l'SM20 è uguale all'MC60, c'è il circuito di preamplificazione, l'MD100 non ha il circuito di preamplificazione, un microfono normale della Yaesu. Ok, quello volevo sapere. Va bene, avanti a chi tocca, che se non dite il ruoto non riprende nessuno, vabbè, ciao, buonasera a tutti, ciao, non riprendo più. No, Silvia, io sono in ascolto, non voglio parlare, dai. Già ci sentiamo, non c'è problema, buona serata a tutti e buon divertimento, ciao. Io lo sono Vito Martello. Buonasera signori. Vabbè già, Vito vai. È uguale identico al mio, Massimiliano, uguale. Vabbè, te l'ho voluto mandare, pura curiosità, non è che... Sembra nuovo, a parte le luci che c'ha nella scritta con la scritta, ma sembra nuovo. Buonino. Non è male neanche il prezzo, va. No, non è male. Già, magari quelle bollicine sono sporcizi, eh? Ma se provassi un TAR per il gassi, è una cosa più ben fatta. 120 euro te lo vendo io. Che cosa? Il TAR. Non ne vorrà 60 a me. Oh, il TAR, però, è Luca lì. Ma non finirà intanto 120, ma così ti ammazzi. Ma Marco ci mi dai 750 per dopo, Guiglio, non hai capito? Che questo funziona bene, nuovo nuovo, abbiato che l'ha già avuto. Perché tu lo venderesti, Massimiliano? Quante volte te l'ho chiesto? Me l'hai dato, l'ho provato, però non l'hai mai venduto. Perché sono introvabili, buoni, ce ne sono pochi in circolazione. Quello tuo e questo mio sono originali. È per quello che non lo do, claro. Non ce n'è, ti ripeto, non ce n'è in giro. Quelli che ci sono sono vasi di bagatto, capito? Ce n'è uno sui media fa paura, fa schifo, lo sta dando 200 euro, fatelo buono. Ma tu già l'hai visto il mio, nuovo come il tuo, perfetti, originale, capsa originale, tutte le scritte, tutte le cose. No, ma sono trovato per miracolo io da un radioattore che ci aveva la connessione all'autopin, capito? Già me l'aveva traduce la connessione a 4, quello era l'odio. E si conferma. Ma perché Gianni non gli hanno mandato quello da 40 euro? Non te l'hanno più mandato. Rieccomi. No, dice di no. E devo dire la mezza druffa isa. Che cosa vuoi ti vecchio? Avanti, Lubrefe. Ehi, non sono andato alla porta, era mio fratello, ha portato lo scaldabagno nuovo e quindi mi sono dovuto assentare, dai. Ma uscendo, sì? Sì, sì. Ok, grazie. No, io poco fa ho rilanciato tutti i mubi. No, io non so manco chi è, non lo so, non ho riconosciuto la voce, mi sento solo Gianni Boffa, tra l'altro mi sembra Antonio Riserva, comunque buonasera anche a te. Buonasera a tutti, dai, mi guardo un po' di TV, non ho voglia di stare in radio. Vi ascolto ma non riprendo, divertitevi, ciao Massimo, ciao a tutti in generale, dai. Andiamo, va, ciao Claudio, ci sentiamo dopo, se in caso, no? Ok, vai, buonasera. Ehi, ciao Claudio, buonasera, ben sentito, eh. Sì, mi è sembrato Antonio, avanti. Sì, ciao Claudio, buonasera, buona TV, allora, ci sentiamo più tardi. Non lo so chi altro c'è, vabbè, riprendete, dai, io stavo ascoltando, ho ascoltato un pezzo. Ciao Antoine, ciao Claudio, ci sentiamo più tardi. Ciao Antonio. Ciao Gianni, ben ascoltato anche a te. Ben sentito. Avanti a chi tocca, lo profe, ripetelo tu, Michelino. Ehi, sì, Antonio, finalmente riesco ad ascoltarlo bene. Cosa hai combinato, Antonio? Sì, ciao, già, ben ascoltato. No, niente, ho messo l'antenna, ti dico che te l'avevo detto. Gianni, ma non te l'hanno più mandato quel microfono? No, a me no, non me l'hanno mandato, ma Claudio, ora l'anziano, non penso che faccia scettufa, non riusciamo a capabizzare, ragazzi, era ricco. Pensavo che ti era arrivato sto momento a tarne. No, io ne ho due, ma non ne vendo manco uno. Vendendoli 200 euro l'uno. Per 180 mi prendo quello di Tonino che è sui presidi di campo. Secondo me è superiore. È uguale, gioca. Se devi stare con i supersidiri che vuoi, cazzo mica sono uguali. Supersidiri che non sempre che si chiama così, perché gli hanno fatto questa sagoma diversa se tu li guardi, e poi è cromata. Apri quello di Tonino e guarda se la capo, se lo guarda questa che ti do la sigla. Sono precisi identici, non cambia niente. Se devi stare... Io l'ho sentito a Torino ed è molto molto superiore come amplificazione tra. Di che cosa? Di questo? Io ce l'ho a 2 però, non viaggio a 4 o a 5 mentre lo devo.